noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. I wanna now, I wanna know, I got to rock, I need to roll. If you can't hang with the speed I go, I'm gonna roll tonight. I wanna now. André Silva prova lui, rete! Rete! André Silva! Il bomber non sbaglia, trova l'angolo, Milan in vantaggio. Arriva questo derby nel momento giusto probabilmente. Io sono molto molto fiducioso perché ho rivisto bene anche l'ultima partita dove sicuramente meritavamo molto di più, il cammino è quello giusto, quindi bisogna avere convinzione e anche un pizzico di serenità in più. Icardi e Perisic, grande scambio, attenzione al croato che scappa via in area di rigore, cerca il centro Icardi! A San Siro nel derby. Il derby è una partita pazzesca, una partita meravigliosa, si sente sempre, si vive un pochettino sempre, però in questo caso qui bisogna arrivarci più lucidi possibile, bisogna arrivarci con la pagina fino a quei giorni lì, con la pagina assolutamente bianca, perché se no si rischia poi di andare fuori dai bordi. Il momento della verità, la notte della verità, la notte delle streghe per l'uno o per l'altra, chi lo sa, però domenica notte ecco un incrocio importante, fondamentale del campionato per i milanesi, faccia a faccia, occhi negli occhi. Per l'Inter può essere davvero il trampolino, la rampa di lancio, per il Milan probabilmente è la partita della grande paura. Ciao Pardo, buongiorno. Ciao, Pierluigi, ciao. Bene, bene, bene, non so come stia Montella in questo momento, ma adesso lo chiediamo ai nostri ospiti, perché come poteva mancare alla vigilia di un derby così importante il confronto tra Franco Ordine e Fabrizio Biasin? Vabbè, ci piace vincere facile. Tigità che impurezza, diciamo. Buongiorno Franco Ordine. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. C'è Peppino? C'è Peppino. È presente. Buon bravo, bravo. Bravo, buon Peppino derby a presente. Tutti. Allora, visto che sei abituato, Pardo, a gestire questa coppia di fatto, come d'altra parte lo siamo io e te, è inutile nasconderci. Sì. Vai, vai. Vai. Sono abituato. Chi vince? Chi vabbè. Domanda facile, Sì, come direbbe Gianni Brera, le carte dicono Inter. Come dice Gianni Brera, come diceva Gianni Brera, o come direbbe, se fosse ancora tra noi. Come dice il miglior luogo comune del calcio, la squadra che parte con gli svantaggi del pronostico del derby è quella che poi vince. Ecco. Se sei venuto in trasmissione a tutti i convocati per citare dei luoghi comuni, potevi stare a casa e facevi più bella figura. Non è che tu hai detto una genialata, voglio dire. Sì, devo dire, per ora siamo 0-0, scusate, totali 0-0, che anche per, secondo me, è il risultato più probabile, magari 1-1, però è chiaro che il pareggione è il risultato più probabile, perché da un lato l'Inter è vero che se vince salta giù doppio carpiato dal trampolino nell'acqua delle grandi, se il Milan perde allora va davvero all'inferno e forse ci va anche Montella. Pardo, sei d'accordo con me? Sì, sì, ma guarda, la sintesi è molto molto chiara, è una partita che per il Milan è veramente già dentro o fuori in maniera molto pesante, poi ovviamente è un derby e il derby è una partita complicata sempre, a prescindere, ed è ovviamente più si alza l'asticella e più aumentano le aspettative, quindi anche per l'Inter è una partita molto delicata, però la situazione psicologica è completamente diversa tra queste due squadre. La qualità in campo secondo me non è così distante, cioè, la differenza è che l'Inter ha trovato una quadra con la sua semplicità e il Milan invece ancora no, però insomma secondo me il Milan veramente adesso mai più deve, certo. o si stappa questo fardello, questo tappo di champagne e il Milan comincia a esprimere la qualità che ha, perché poi se vediamo gli 11 sono giocatori comunque di livello, oppure oppure evidentemente ci vediamo l'anno prossimo. E ci vediamo l'anno prossimo e ci vediamo senza Montella magari prima di novembre, Franco. Sarebbe la terza sconfitta consecutiva. Passerebbe. Ti posso, in questi casi faccio da portavoce, ti posso garantire che il Montella di oggi rispetto a 15 giorni fa è molto più sicuro e tranquillo, la battuta è buona, ma diciamo io non l'ho sentita. Ripeti? La battuta è impertinente. Cosa ha detto? Non ho sentito. Perché negli ultimi 15 giorni non ha perso. Quindi certo. Anche qui no, è fredda cronaca. La battuta è buona, però da quello che mi pare di capire, negli ultimi 15 giorni si sono allontanate un po' di stagome minacciose che incombevano sul futuro immediato di Montella, e le dichiarazioni dello stesso Fassone di queste ultime ore, di questi ultimi giorni, mi sembrano andare nella direzione giusta, perché significa garantire a Montella, almeno da questo punto di vista, almeno un altro mese di tregua e di valutazione. C'è Milan-Juve, non dimentichiamocelo. 28 di ottobre. Ecco, quello secondo me è un passaggio. Quello lì è lo striscione del primo chilometro. Dell'ultimo chilometro. In certi casi non è tanto il risultato quanto quello che succede nello spogliatoio, cioè tu puoi perdere il derby ma avere tutti dalla tua parte, oppure magari pure vincerlo e avere dei problemi tra i giocatori. Mi sembra che in questo momento Montella abbia ancora tutta la squadra con sé. Sì, però tornare da questo punto di vista. Punto di vista ti segnalo, perché questo è un argomento molto sensibile a livello di spogliatori del Milan, ti segnalo questa decisione che sembra aver preso Montella, e cioè quella di far giocare i derby a quelli che sono rimasti a Milanello e che hanno molto lavorato, e non a caso sono quelli che hanno appartengono all'ancien regime, al vecchio Milan, e sto parlando di Abate, Suso, Bonaventura. Secondo me il problema vero a proposito di calcio giocato è che con la coppia Suso André Silva secondo me fanno grande fatica a fare gol. Sì, questo è vero, fanno grande fatica a fare gol, Kalinic non sarà di questa partita, e è un Milan che Montella fa bene ad affidare ai suoi senatori, a quelli che conosce meglio e a quelli che lo conoscono un po' meglio. Io continuo a far fatica a pensare a un Milan che vada avanti così di conserva dopo tre eventuali sconfitte consecutive. Questo concedetemelo, perché sarebbe molto difficile per Montella lavorare. Biasini invece come arriva Spalletti a questa partita? Ma molto convinto del suo gruppo. È chiaro che sono stati giorni difficili, nel senso che hai ricominciato a lavorare praticamente ieri con il gruppo, però l'Inter ha delle certezze, si conosce più o meno la formazione titolare, una squadra che ha ancora tanti difetti, ha la sua dose di fortuna, ma sa lavorare sui 90 minuti, e infatti domenica si va a giocare con una squadra che è più o meno quella che ha giocato anche contro il Benevento. Sì, ma Brozovic purtroppo non ci sarà, ci sarà João Mario, e si spera tutti quanti che João Mario si ricordi che non esiste solo il Portogallo. Sì, anche questa battuta passata. Comunque la parola chiave l'ha detta Pierluigi prima a proposito dell'Inter, ed è semplicità, perché è chiaro che Spalletti ha cominciato dalle cose semplici, per quelle difficili a ripassare magari con un po' più di qualità, Pier. Sì, ma sai, già la semplicità è tanta roba, nel caso. Come no? Ma ci mancherebbe altro. Poi la base dell'Inter è una base buona, non è una base pessima, la base è buona. Io credo che l'Inter negli 11 sia una squadra molto competitiva, alla lunga può avere qualche problema, secondo me soprattutto dietro manca un centrale in più di difesa, secondo me di un certo livello, ha degli equilibri e delle gerarchie abbastanza consolidate, abbastanza precise, però perché c'è una differenza tra i titolarissimi, e non a caso è la squadra che ha cominciato a prepararlo il derby oggi in treno, è la squadra che ha schierato ad oggi meno giocatori, 18 dell'intera Serie A, e meno titolari, cioè 14 giocatori in totale in 7 giornate sono stati titolari, quindi è un numero abbastanza impressionante, no? È molto molto vicino a 11, sarebbe ovviamente la situazione di una squadra che non cambia mai, e quindi vuol dire che le gerarchie sono molto precise, però è pure vero che l'Inter non ha le coppe e quindi questo tipo di problema si ridimensiona, nel senso che comunque c'è quasi sempre la possibilità di avere una settimana per rifiatare. Non vedo grandi problemi da questo punto di vista. Il problema potrebbe succedere se Biasin puoi già toccare terra, se dovessero essere dei problemi di natura fisica lunghi per qualcuno, perché è ovvio che la coperta è un po' corta. Però se non succede. No, aspetta, allora vi interrompo un attimo, abbiamo il traffico, poi possono ovviamente intervenire anche gli ascoltatori, 800 24 00 24, poi arriverà pure Capuano per la consueta, il grande classico, la schedina con Pardo, gioco da venerdì. Allora, traffico. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Tutti convocati. Dove eravamo rimasti? Luigi, dove eravamo rimasti mentre c'è Roberto da Brescia? Eravamo rimasti che Biasin stava per dire una cosa, un soprattutto legato a un eventuale reparto dove forse l'Inter potrebbe soffrire di più se dovesse avere dei problemi. Ovviamente stava toccando ferro il signor Biasin. Prego. Abbiamo moltissimo, dato di fatto che in difesa l'Inter in questo momento sia contata, cioè ci sono due giocatori che stanno facendo veramente un buon campionato, che si chiamano Skriniar e Miranda. Negli ultimi 15 giorni io credo che Spalletti abbia toccato ferro molto più di me, nel senso che ci sono state tante partite della nazionale dove lui ha avuto i brividi, per fortuna tendenzialmente sono tornati tutti più o meno al 100%. Senti Franco, come fa il Milan a mettere in difficoltà l'Inter? Ma guarda, il Milan per mettere in difficoltà l'Inter ha un solo modo, deve farla venire avanti, deve aspettarla, perché è l'unico modo perché si possano aprire dei varchi, perché si possano e si possa in qualche modo approfittare di quel vantaggio numerico che ci sarà al centrocampo, 5 contro 2, che dovrebbe in qualche modo aiutare diciamo tatticamente la squadra di Montella. Questo è, diciamo, sulla teoria. Poi sulla pratica naturalmente magari succede esattamente il contrario. Roberto da Brescia, buongiorno. Dica. Sostanzialmente io penso che c'è un presupposto Milan, un mister che non è tranquillo e quindi secondo me non riesce a trasmettere la tranquillità alla squadra, e quindi non ci sono questi presupposti positivi. Tuttavia c'è il fattore derby, quindi può succedere di tutto. Quindi sicuramente Inter è avvantaggiato per questi, perché più struttura ha presupposti importanti, però Milan ha mister non tranquillo, quindi la sento più. Saluto Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Ciao a tutti. Hai sentito le nostre chiacchiere da derby? Volevi aggiungere qualcosa? Due paradossi. Il primo paradosso è che il fatto che non abbia recuperato Kalinic, secondo me è una buona notizia per Montella, gli ha chiarito le idee, visto che sulle gerarchie in attacco mi pare che a metà ottobre non le abbia ancora pienamente chiare. E la seconda è che trovo paradossale che Brozovic, che fino a 10 giorni fa, prima della doppietta di Benevento, era l'ultimo della lista, sia diventato improvvisamente così insostituibile che la sua assenza è un problema. Sei d'accordo, Pierluigi? Beh, Brozovic si è recuperato, è un eccellente giocatore. Brozovic è un giocatore umorale. L'Inter ne ha parecchi giocatori con queste caratteristiche. Il discorso vale per Perisic, che chiaramente ha un peso diverso, certo, e superiore. No, un peso diverso e superiore, però famoso tweet dell'altra sera di Brozovic, dove eri l'altra sera tra le 20:30, pure Perisic, se Perisic fosse un filo più continuo sarebbe un giocatore veramente di livello top assoluto, non c'era molto, lo stesso che Andrea ha avuto alti e bassi, quindi Brozovic per me nell'Inter ad oggi rimane un'alternativa nelle gerarchie. È chiaro che è un giocatore che quando sta bene, quando è in condizione, quando è in salute, diventa un'alternativa che può far male, come ha fatto sicuramente a Benevento. Ma insomma lì c'è abbondanza, perché la rotazione, lo sappiamo, è essenzialmente di 5 giocatori per 3 maglie, quindi o se preferisci di 7 giocatori in 5 maglie, se vuoi allargare il discorso ai due esterni, i due centrocampisti e i tre giocatori a ridosso di Icardi. Quindi l'Inter lì è messa abbastanza bene. Brozovic per me in assoluto rimane la prima alternativa, quindi sono d'accordo con Capo. Ma, sì, ma Fabrizio, l'Inter ha un dannato bisogno di qualità, secondo me. Pierluigi dice sì. Servirebbe un centrale in più, eccetera. Secondo me in questa squadra, ma l'abbiamo detto anche tante troppe volte, manca la qualità, manca il giocatore creativo, manca il giocatore che salta l'uomo, manca il giocatore che inventa, sì. Infatti io spero che non ci si concentri troppo sull'Icardi che deve dare la mano al resto della squadra e che invece ci si faccia l'esatto opposto, cioè deve essere la squadra capace di servire quello che è un mostro d'area di rigore come Mauro Icardi. Io spero che uno come Borja Valero possa giocare qualche metro un po' più avanti per servire qualche pallone in più, il resto lo dovrà fare João Mario, speriamo che sia in serata. Franco, come giocherà il Milan invece? Ma guarda, io spero che Spalletti purtroppo non sarà così, non dia retta a Biasini, perché seppure Borja Valero gioca più avanti insieme con Perisic, Candreva, João Mario e Icardi, il povero Gallo lì bisogna ricoverarlo per esaurimento nervoso dopo 10 minuti. Comunque vabbè, al di là di questo, volevo dire come giocherà il Milan, secondo me gioca con la squadra già fatta. Cioè Donnarumma, i tre in difesa che sono Musacchio, allacciate le cinture di sicurezza, Bonucci, Romagnoli, Abate, che sì, Biglia, Bonaventura, Rodriguez, Suso, André Silva. Piuttosto sarebbe divertente il giochino. Qual è il punto debole di Milan-Inter? Comincio io a dare una risposta. Vai. Milan, Musacchio, Inter, Nagatomo! Io me lo immaginavo Franco con l'attacco a Nagatomo, però devo dirti la verità, toccando ferro quest'anno Nagatomo, pur non avendo dei picchi in avanti, non ha comunque deluso, ha fatto, devo dire, molto bene il suo compitino. Certo, è vero. Certo, è un problema se Nagatomo è ancora il titolare dell'Inter a sinistra, questo sicuramente, ci aspettiamo molto di più da Dalbert. Vabbè ragazzi, io dimmi 30 secondi sulla signora Musacchio, oggi diciamo i principali siti italiani ospitavano delle foto gallery di centinaia di foto sulle wax del derby e insomma bisogna sottolineare. Ho capito, però noi stiamo parlando del Musacchio, calcio. Marito calciatore. Vabbè, il Musacchio arrabbiato, vai sempre sulle uova. il Musacchio marito calciatore ha bisogno anche di un po' di tempo per adattarti. Scusami, il bilancio con la signorina Skriniar, non so se avete passando dalle wax, quello che colpisce è la velocità di adattamento di uno come Skriniar, che all'inizio della sua esperienza alla Samp sembrava veramente uno venuto da un altro pianeta, che alla Samp è cresciuto tantissimo, che però sta facendo le cose incredibili adesso, e questo è merito di Spalletti, secondo me è merito di Spalletti e della chiarezza tattica. Forse in qualche modo l'Inter è stata anche facilitata, prima Capuano diceva che l'assenza di Kalinic toglie un dubbio a Montella, forse è un po' questo il tema, che l'Inter, che sicuramente sperava di fare un mercato di tipo diverso, aveva quelli su quelli Spalletti ha lavorato da subito e l'ha fatto molto bene. Montella si è trovato con delle gerarchie, con un mercato sicuramente più ricco, e ha fatto fatica e sta facendo fatica a trovare le gerarchie, appunto, che ancora oggi noi non sappiamo se chi sono i titolari e chi sono le riserve. Allora, Carlo, posso partecipare al giochino di Franco? Certo, vuoi partecipare? Poi salutiamo Franco Ordine e Fabrizio Biasina e facciamo la schedina, allarghiamo il discorso anche alle altre, perché mi sembra ci sia qualche altra partita. Della Roma abbiamo parlato ieri, della Juventus ha parlato oggi Allegri, insomma tante cose. Di Giovanni. Il punto debole dell'Inter è Gagliardini, perché se crolla lui viene giù la diga, e il motivo lo spiegava prima Franco. Il punto debole del Milan lo spiegava prima Franco quando ha detto allacciate le cinture, è Bonucci, e sembra tutto paradossale, ma io ho sentito addirittura tifosi del Milan dire che sarebbe meglio togliere Bonucci e farne giocare altri tre, cioè far giocare un altro al posto suo nel terzetto dietro. Vabbè, ma se dovevi ripetere quello che ho detto io, scusa, potevi stare a casa anche lui, stanno a casa tutti. Nagatomo no, Franco, Nagatomo no, Nagatomo Nagatomo no, Nagatomo no. Discutere Bonucci, ragazzi, dai, ma come si fa adesso sinceramente? Ma non fagli... Io parlavo prima di Musacchio, non di Bonucci, perché il Bonucci che ho visto in Albania, secondo me, è su una promettente strada di recupero della condizione migliore. A quattro e con altri compagni, a quattro e con altri compagni. Ma su Bonucci, voglio dire, è chiaro che Bonucci ha avuto un pessimo avvio di stagione, è inutile girarci attorno, ma non puoi non insistere su un giocatore così. Certo, non, puoi, non c'è un'alternativa, nel senso che se tu abdichi vuol dire che rinunci a prescindere a, ma alla poi, qualità. Scusami, ma poi scusami, parlando del giocatore, ma, più forte ragazzi, della Serie A. Ragazzi, ma poi scusate, okay. Scusate, ma poi scusami, Bonucci ha dimostrato di giocare bene anche a 4. Ma scusate, ma non ha dimostrato di giocare senza Barzagli e quegli altri. Ascolta, guarda, questa è una bestemmia. Perché con Barzagli, Bonucci e Buffon, con allenatore del Neri, sono arrivati settimi. Allora non è una questione di Bonucci. Adesso Bonucci senza Barzagli e Chiellini non può giocare a pallone. Vabbè. Questa roba qui è una roba che grida vendetta davanti. Io sono abbastanza d'accordo con Ordine. Sono abbastanza d'accordo con Ordine. E grazie. Credo. E te credo. Grazie Ciccio, grazie Fabrizio Rosin, grazie, alla prossima. Arrivederci su Tikita, che io penso prima o poi. Comunque, siamo alla schedina, ragazzi. Siete pronti? Vai. Sicuri? Ma vuoi ricordare il parziale? Certo, la classifica è 3-1, ma l'ultima volta ho vinto io e l'ultima volta ho capito. Geologica ha vinto Pier, sì. Attenzione, in striscia Pardo vuole aprire una striscia, un filotto. Dai, e allora comincia lui con i pronostici. Roma-Napoli. Veramente c'è Juve-Lazio prima. Lo so, ma io parto da qui. X. Roma-Napoli 2. E allora quella che c'è prima. Juventus-Lazio, ore 18. Vado io? 1. Sì, 1. Poi passiamo a domenica. Fiorentina-Udinese. 1. 1. Bologna-Spal. 1. X. Ah, sparigliamo sul derby emiliano. Cagliari-Genoa. Cagliari-Genoa, 1. X. Crotone-Torino, Capuano. Crotone-Torino X 2. Sampdoria-Atalanta. Samp, sai che io non la prendo per una questione, non so perché. Quindi la Samp... Io faccio io diverso dico... No, infatti. Samp-Atalanta diciamo X. Io credo 2. Sassuolo-Chievo. Sassuolo-Chievo 1. Sassuolo-Chievo 1. Sassuolo-Chievo X, scusami, Sassuolo-Chievo X. Allora, io vado alla partita di lunedì e poi chiudiamo col pronosticone del derby. Verona Benevento lunedì. Ma facciamo anche la Serie B, perdonami. No. Scherzo. Ma Verona Benevento X. L'hai detto tu, Pierluigi? Sì, X, l'ho detto prima. Hai io. Detto, sì, ha detto X, ha detto X anche lui. Ma sì, adesso sì. Toccherebbe a Capuano dare il pronostico del derby. Certo, il mio pronostico del derby è che per Spalletti e Montella l'unica cosa da evitare come la peste è pareggiare, quindi dico X. Dico X anch'io. E dico X anch'io. Mi sembra una partita da X inchiodato. Il Milan per paura, l'Inter perché tutto sommato potrebbe non andare malissimo. Sai cosa mi ricorda, Pier, questa partita? Sì. Mi ricorda Inter-Juventus dell'anno in cui Allegri è partito malissimo e andò a San Siro col rischio di finire a chilometri dall'Inter, e in questi momenti l'importante è sopravvivere. Siccome poi l'Inter, dopo la trasferta di Napoli, se esce con un pareggio, in fondo potrebbe anche ammortizzare una sconfitta là. Sì, ma io comunque ho detto X soltanto perché l'ho detto Capuano e vantaggio dopo il 9 partite, non volevo rischiare. Che abbiamo spariglato tanto a sto giro. Sì, abbastanza. Parecchio. Ciao ragazzi, grazie. Ciao a tutti. Ho tempo di sentire Luigi? Ce la facciamo? Dai, sì, non otteniamoli in preascolto. Luigi, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione innanzitutto. Mille grazie. Per me questo derby potrebbe essere di alta qualità perché i giocatori ci sono, ci sono tutti gli ingredienti per vedere una grande partita. Sì, gli ingredienti ci sono, non so se la frittata verrà buona, perché a me sembra talmente una partita difficile, soprattutto per il Milan, che li vedo un po' bloccati dalla tensione, dalla paura. Li voglio vedere in faccia domenica sera quando escono dal tunnel. Allora, ci fermiamo per la borsa? 800240024, se volete intervenire, poi andiamo un po' sulla vigilia della Juventus e chiuderemo ovviamente oggi venerdì Racing Team. Facciamo piangere per il momento Leo Turrini, che lunedì, insomma, di cui lunedì abbiamo appurato tutto il dolore, e andremo invece in Giappone sul moto mondiale, sulle prime prove sotto l'acqua e con un grande ospite oltre a Roberto Ungaro, ma questo accade dopo borsa. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20, manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Domani gioca Buffon, è tornato bello pimpante dalla nazionale. Che dire, sta bene. Per quanto riguarda gli infortunati, così facciamo il punto. Domani rientreranno a disposizione Khedira, Pjanic sarà a disposizione mercoledì, perché non voglio rischiarlo. Non dite a Mandzukic che sta male, che ha preso una botta, però quello si arrabbia, lasciamolo perdere. È tornato, sta bene, quindi Mandzukic sta bene. Può giocare, si è allenato, sta veramente bene. Così Allegri nella partita che apre le danze di una giornata di campionato interessantissima, uno snodo, perché come abbiamo detto mille volte non scopriamo niente, ma proprio niente di nuovo. È un campionato che si gioca sui confronti diretti. Juventus-Lazio può essere considerato un confronto diretto, anche se ovviamente per obiettivi diversi, però la Lazio, ripetiamo anche qui per l'ennesima volta, è una signora squadra e dunque è un test credibile dopo le 2 settimane di viaggi più o meno intercontinentali dei vari giocatori. Buongiorno Guido Baciago di Tutto Sport. Ciao, buongiorno a chi ci ascolta. Dunque, abbiamo sentito spiccioli di formazione da Allegri, che dirà sì, Buffon non gioca, Pjanic gioca, Mandzukic perché se no si incazza se gli dici che stai male, che sta male, eccetera eccetera. Quindi si va verso la Juventus migliore al banco prova della Lazio prima della Champions League. Mandzukic si arrabbia perché c'ha la coda di paglia, perché Mandzukic è l'ultima con la nazionale l'ha giocata con un minimo di infiltrazione contro il parere dei medici della Juve, dopodiché poi è andata bene, non si è fatto particolarmente male, però la caviglia era un po' fuori posto, insomma. E un minimo di dolore, di botta c'era, altrimenti non sarebbe ricorso a come minimo a degli antidolorifici. Dopodiché poi si stava giocando al mondiale, giusto così, poi uno come lui che è un combattente nato, su questo ha perfettamente ragione Allegri, non è certo uno che si tira indietro. Hanno abbastanza, come dire, stretto le chiappe i dirigenti della Juve durante l'ultima partita della nazionale, perché ecco, una botta alla caviglia data nel modo giusto e Mandzukic magari stava fuori 3 mesi. Sì, sono un po' sì, che sì. Si hanno in questi casi, ma credo che quando siano fuori classe siano abbastanza comuni a tutte le squadre. Sì, se non spero che non ci senta, anzi ci sentirà, spero che ci senta Sarri quando diciamo che dalle nazionali si danno e si prendono, no, le botte. Mandzukic da una parte, dall'altra Sampaoli che ti risparmia Dybala e Higuain, Guido. Sì, dall'altra Sampaoli ti risparmia Dybala e Higuain, oggettivamente in modo piuttosto incredibile, perché poi voglio dire, io grande rispetto per il Papu Gomez, ma che adesso il Papu debba essere preferito a Dybala e Higuain, credo che ci sia qualcosa che non va, esatto, o meglio c'è qualcosa che va, che funziona con delle logiche che noi non conosciamo, che non vogliamo conoscere. Sì, direi di sì, che in fondo tutto sommato Dybala si è fatto 15 giorni di vacanze pagate in Argentina e forse l'unica cosa che gli mancherà sarà un po' il ritmo partita, un po' gli allenamenti, perché poi in nazionale non è che ci si alleni così duramente, però credo che poi alla fine ci sarà anche tutta la rabbia da scaricare per questi 0 minuti nelle 2 partite decisive, certo, per la conquista del mondiale. Anche se la cosa più interessante, Sampaoli l'ha detta ai cileni quando ha raccontato di quello che si trovava nella nazionale cilena, e quando ha detto che Vidal in questo momento ha bisogno di uno specialista per uscire dal problema del bere, ma questo è tutto un altro discorso. Che discorso è? Ma è un'intervista che Sampaoli ha fatto al Diario de Noticias, che è il principale quotidiano cileno, e lui, da ex diciamo CT del Cile, ha approfittato di essere in Argentina, quindi ormai fuori pericolo, e ha raccontato tutto quello che avviene nella nazionale cilena, cosa che era già emersa negli ultimi giorni, ma diciamo avere la conferma di un ex CT, e ha detto apertamente che Vidal ha un problema con l'alcol e che secondo lui deve rivolgersi a uno specialista, che una volta gli aveva chiesto su un aereo e una trasferta per una partita di Coppa America di bere una birra, e poi in realtà si era rivelata un whisky, nel senso che la stessa quantità di una media lui se l'era bevuta però di Jack Daniels, e questo era costato il posto a chi gliel'aveva procurato, cioè l'autista del pullman, e comunque ha descritto uno scenario di questo Cile tutto ubriachi e festini. Scenario non incoraggiante. No, questo lo dico anche sì, a consumo, gli interisti che stanno sognando l'arrivo di Vidal a gennaio. Sì, sì, sì. Ecco, Vidal a Milano, io forse, non che Monaco di Baviera sia priva di tentazioni, ma Milano credo che sia Un posto pericoloso per uno che non, per uno che è abituato a fare un certo tipo di vita, diciamo così. Guido, allarghiamo un attimo il discorso a questa giornata di campionato con te. L'abbiamo già fatto prima con altri ospiti, dicevo, giornata cruciale. Sarri non parla, secondo Vezzo non del tutto condivisibile, soprattutto la vigilia di partite importantissime da molti punti di vista, ordine pubblico compreso, come questa con la Roma. È una partita determinante per tutte e due, è banale dirlo, ma è così. È abbastanza, anche se siamo ancora in una fase in cui i passi falsi si possono recuperare, però ha un valore anche psicologico, perché battere la Roma per il Napoli significherebbe acquisire ancora più certezze sulla propria forza e sul proprio salto di qualità, di cui si è parlato a lungo nelle prime sette giornate. Sì. Non battere la Roma potrebbe innescare qualche dubbio nel fatto che questo salto di qualità sia avvenuto sul serio. Sì, anche se tutto sommato un pareggio a Roma potrebbe essere accettabile nella logica delle cose, e non è che il Napoli poi può vincere ogni maledetta domenica, even Sunday, come infatti, titolo del infatti film. Infatti credo che sia forse più potrebbe dare più un turbo, una vittoria, che frenare un pareggio. Certo, una sconfitta invece innescherebbe i soliti problemi, diciamo di ambiente, problemi psicologici che ha il Napoli, che quando poi perde inizia a intorcinarsi su se stesso e a perdere quella sicurezza che ha mostrato nelle prime giornate di campionato. Ne parlavo qualche settimana fa con Pierpaolo Marino, che diceva: io il Napoli lo voglio vedere alla prima sconfitta, perché la reazione alla prima sconfitta sarà quella determinante. Questo è chiaro. Guido, un'ultima cosa, torniamo a Torino. Ad Allegri è stato chiesto anche in conferenza stampa una battuta sulla sua possibilità un giorno, chissà mai quando, di vestirsi da azzurro. Allegri: in futuro un po' più avanti. Vedremo. Io credo che in questo momento bisogna stare vicini alla nazionale, perché c'è uno spareggio importante e l'Italia deve andare al mondiale. L'obiettivo della nazionale è quello di arrivare al mondiale, che poi ci si arrivi attraverso uno spareggio non conta niente, l'importante è arrivare al mondiale. Quindi grosso modo sono fatti di Ventura, miei forse un giorno, magari chissà quando, ma ovviamente difficile, perché chi glielo farebbe fare ad Allegri di andare a allenare, che è un top coach in questo momento, di andare ad allenare alla nazionale guadagnando un quarto dei soldi che guadagna la Juve? Oggi nessuno glielo farebbe fare, anche perché se devo disegnare una carriera di Allegri, io penso che dopo la Juventus ci sarà una squadra all'estero, magari in Inghilterra, comunque un'esperienza all'estero a cui lui sta puntando, perché potrebbe completarlo come allenatore. E poi credo che sì, potrebbe prendere in considerazione la nazionale, lui sarebbe molto adatto. Allegri non è un integralista dell'allenamento, dello schema, del fatto di dire datemi almeno X giorni all'anno perché sennò non riesco a insegnare il mio calcio. Allegri è una persona elastica, che la cui intelligenza sta proprio nel capire, nell'adattarsi alle situazioni, non nel adattare le situazioni al suo credo. E quindi sarebbe un perfetto selezionatore e credo anche un perfetto CT. in questo assomiglia per certi versi a, a Marcello Lippi. Chissà, magari non, certamente non in Russia, magari neanche in quello dopo, però potrebbe essere il ciclo che arriva dopo il successore di Ventura, potrebbe essere un ciclo di Allegri. Grazie Guido. Ti abbraccio, grazie Guido da Ciago, Tutto Sport. Allora ci fermiamo per il traffico e poi arriva Racing Team, arriva Roberto Ungaro e arriva un ospite importante, perché lasciamolo dire a Roberto qual è stata la notizia di oggi sulla pista bagnata in Giappone. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. Racing Team. Buongiorno a The Voice, Roberto Ungaro, ciao. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Allora, raccontaci che è successo in Giappone. Acqua protagonista, Carlo, nella prima giornata di prove. Marquez e Dovizioso, battaglia accesissima. Un turno di prove a testa al comando. Ricordiamo che il Dovi segue in campionato a soli 16 punti. Lorenzo poco dietro, quarto in tutti e due i turni e protagonista di una brutta caduta perché è stato travolto da Kraschev, però nessuna frattura. Yamaha invece è in difficoltà, non hanno grip. Valentino 19esimo e 12esimo. Vignales, che ricordiamo è ancora in ballo per il mondiale, anche lui nelle retrovie. Ma la notizia del giorno, Carlo, è non più una sorpresa, è che c'è una Aprilia fantastica. Seconda e terza nei due turni di prove con l'ottimo Espargaró. Sapevamo che c'era, che era in crescita, ora ecco la conferma. Eh sì, e dato che noi non siamo qui a smacchiare i panda, ma facciamo sul serio, ecco che abbiamo collegato con noi il responsabile di Aprilia Racing Team, e cioè Romano Albesiano. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti, ciao Roberto. Ciao, ciao. Senti, ad Aragon una nuova cassafiltro, qui cornetti di aspirazione variabili. Io vado subito come appassionato per sapere. Innanzitutto complimenti, però la Aprilia sta crescendo davvero, il tocco magico, ci siete, Romano? Sì, stiamo crescendo, non ci fermiamo mai, insomma, ad ogni gara portiamo qualche novità, ma generalmente il livello di competitività che abbiamo dimostrato è decisamente buono, direi in linea con i target della stagione, anche forse qualcosina di più. Adesso dobbiamo migliorare ancora e consolidare questo risultato, certo, questa prestazione. Perché comunque la prestazione c'era, è che non si vedeva, cioè per una serie di sventure, una serie di cose, Espargaró è più volte stato molto veloce, è che non è apparsa questa prestazione dell'Aprilia, vero o no? Sì, come dicevo siamo stati un po' poco, come dire, consistenti nel mantenere la prestazione. Vivendo il weekend dalla pista si vede come sia sempre molto avanti a Lecce in ogni turno di prove, quella esatto, la vera dimostrazione di competitività. Poi però è chiaramente la domenica pomeriggio che si deve fare il risultato, e questo per inesperienza, necessità di crescita, qualche errore di emotività da parte del pilota, abbiamo portato a casa molto meno di quanto volevamo, però diciamo non era l'obiettivo prioritario della stagione, che era quello di arrivare finalmente definitivamente a un livello di competitività adeguato. Dopodiché certo, dobbiamo renderci più solidi. Senti, voglio fare a Romano una domanda io generale, poi rilascio la palla a Roberto Ungaro, il microfono a Roberto Ungaro. Questa corsa può essere, insomma, decisiva, speriamo, un Giappone di colore diverso rispetto a quella della Ferrari. Il colore è lo stesso, cioè quello rosso Ducati. Romano, è chiaro che qui Dovizioso si gioca tutto quasi. Ma questa è una pista tradizionalmente dove la Ducati è sempre andata molto, molto forte. Dovizioso sta facendo la sua migliore stagione di sempre, quindi ha delle ottime possibilità. Dall'altra parte si è a casa Honda e Marquez, quindi è durissima. Durissima. Non mi rendo conto anch'io, durissima. Senti, poi Romano, vai. No, dicevo, sulle moto può succedere sempre di tutto. Quello è vero. Thanks comunque, God. Tornando prima a Espargaró, ha sempre detto subito dalla prima volta che la provò che la moto era eccezionale come ciclistica. Siete cresciuti di motore, gli avete dato forse più corpo a metà, un'erogazione migliore, almeno così si dice. Confermi, Romano? Assolutamente sì, lui ci sorprese moltissimo all'inizio, il commento molto positivo sulle caratteristiche di frenata, di turning della moto, e quindi ci contestò una certa mancanza di accelerazione dei bassi regimi. Abbiamo lavorato molto su quella parte lì, la moto è cresciuta tantissimo. Poi è nata anche un'intesa molto buona tra lui e il team, quindi questo sulle moto è fondamentale per far crescere la confidenza del pilota a dare il massimo, e quindi è tutto un cocktail che sta andando bene. Certo. Qual è la strada verso il futuro? Roberto, lo chiedo a te e a Romano Albesiano per Aprilia. Tu come lo leggi e poi chiediamo l'interpretazione autentica. Allora, per gli ascoltatori di Radio 24 io dico, confermo quello che diceva Romano, dicendo che l'Aprilia nelle ciclistiche è sempre stata maestra, ha insegnato molto e quindi c'era da recuperare a livello di motore. L'anno prossimo la novità, Carlo, è che arriva Scott Reddick, e qui la domanda per Romano. Mi piace molto, mi piace molto. Tra l'altro fortissimo qui sulle prime prove, nelle prime prove sul bagnato, perché è stato veramente protagonista. E quindi a Romano cosa si aspetta, che tipo di pilota è e con questa moto cosa vedremo con lui? Ma da Scott aspettiamo tanto, nel senso che è un pilota che secondo me non ha ancora dato quello che il suo talento può dare in MotoGP. Lui fece un'ultima stagione in Moto2 straordinaria, dove perse il titolo solo per sfortuna, per nulla, ma se lo sarebbe meritato. Certo. E poi in MotoGP per tante ragioni non ha dato tutto quello che... Io mi auguro che con noi trovi le condizioni tecniche e di ambiente tali da portarlo a dare tutto quello che può dare, che è tantissimo. Ma scusa, ma è un pilota che è anche strutturalmente non banale, è un pilota a cui costruire una moto addosso? Sì, oggi si deve costruire la moto sul pilota, assolutamente. I piloti vengono misurati, rilevati, inseriti nel CAD, cioè nello strumento di progettazione viene disegnata la moto esattamente attorno a loro. Questo sì. Grazie Romano, in bocca al lupo, ti aspettiamo per la corsa, aspettiamo Aprilia per la corsa. Cosa c'è da augurarsi? Grazie. Roby, abbiamo 6 secondi, però dimmi cosa c'è da augurarsi per la corsa in Giappone, ovviamente guardando gli interessi di partito, quelli nostri. Che tra il duello Marquez e Dovizioso se la giochino veramente, l'acqua non faccia delle brutte sorprese, chissà che non sia la prima vittoria di Lorenzo con la Ducati. E io dico attenzione a Petrucci, perché domenica pioverà e lui sull'acqua, lo sappiamo, è un maestro. E noi vedremo e ne parleremo naturalmente. Grazie Roberto Ungaro. Grazie a te Carlo, ciao. Ciao. Ciao a Gianmarco Ferronato in regia, a Claudia Schiattone, oggi nostro autore, e ci risentiamo con Giovanni Capuano domenica pomeriggio, tutti convocati weekend alle 17. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!